in 69 anni. Rendimento del BTP decennale sotto il 5% per la prima volta negli ultimi 6 mesi. Nuovi dati Istat peggiorano inflazione e disoccupazione in Italia. Arrivata alle Seychelles, la nave Costa Allegra, i passeggeri stanno bene. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. Lucio Dalla è morto questa mattina a causa di un attacco cardiaco a Montreux in Svizzera, dove stava facendo una serie di concerti. Secondo testimoni, il cantante bolognese ha avuto un malore dopo la colazione. Fra 3 giorni Dalla avrebbe compiuto 69 anni. Tra poco, assieme a Marta Cagnola, uno speciale dedicato alla morte di Lucio Dalla. Adesso le altre notizie di questa giornata. Il rendimento dei BTP decennali è sceso sotto la soglia del 5% al 4,99 per la prima volta dal 24 agosto 2011. Il differenziale di rendimento tra Italia e Germania ha toccato 314 punti base. Il tasso di disoccupazione sale ancora e a gennaio ha toccato quota 9,2%, il livello massimo dal 2004. In crescita anche la disoccupazione giovanile tra i 15 e i 24 anni, che segna 31,1%. Altri dati riguardano il tasso di inflazione, che è salito a febbraio al 3,3% dal 3,2% di gennaio. Secondo la stima preliminare dell'Istat, i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza, dal cibo ai carburanti, sono cresciuti del 4,5% su base annua, il massimo dal 2008. Nel pomeriggio a Bruxelles è in programma l'Eurogruppo con i ministri europei dell'economia. Per l'Italia parteciperà Mario Monti, che prima dei lavori dovrebbe incontrare la cancelliera tedesca Angela Merkel. La nave Costa Allegra è arrivata poco prima delle 7 nel porto di Mahé, la principale isola delle Seychelles, rimorchiata dal peschereccio oceanico francese. I passeggeri stanno bene e 378 di loro rimarranno alcuni giorni sull'isola a spese della compagnia per proseguire la loro vacanza. La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito 30 ordinanze di custodia cautelare e domiciliare nei confronti di altrettante persone titolari di pensioni di invalidità, senza però averne alcun diritto. Katia Caramelli ha intervistato il tenente colonnello Bruno Salsano. A questi 30 si aggiungono 47 altri indagati nello stesso procedimento penale, a cui sono stati notificati dei provvedimenti di sequestro preventivo per equivalente per un valore intorno ai 4 milioni di euro, che rappresentano le somme indebitamente percepite. Di che tipo di invalidità usufruivano? Patologie che vanno dai disturbi psichici a questioni legate a difficoltà respiratorie e difficoltà di deambulazione. Noi siamo partiti da dei riscontri documentali dai quali già emergevano delle discrasie, delle anomalie, delle irregolarità. È seguito tutto un accertamento fatto su alcune segnalazioni che ci sono state fatte, che queste hanno sicuramente confortato quanto avevamo riscontrato dalle carte. In più si sono aggiunte delle indagini tecniche, sostanzialmente ascolto di telefoni. I 2 militari italiani indagati dalle autorità indiane per la morte di 2 pescatori resteranno in custodia della polizia fino al 5 marzo per disposizione del Tribunale di Collam. I 2 militari evitano così per il momento la carcerazione. L'esercito siriano ha preso il controllo totale del quartiere di Baba Amr nella città di Homs da 26 giorni sotto il fuoco dell'artiglieria. Mentre continuano le violenze, la Gran Bretagna ha deciso di ritirare tutto il suo personale diplomatico in Siria. Per oggi abbiamo un'ultima notizia che arriva dalle agenzie. In questo momento, dicevo, per oggi sono previste nuove manifestazioni di chi protesta contro l'alta velocità in Valsusa, ma questa notizia arriva però da Roma, dove un gruppo di militanti del movimento Notav si è introdotto nella sede del PD inneggiando a Luca Abba e ha occupato l'ingresso degli uffici. Il gruppo è formato da una ventina di giovani che hanno appeso uno striscione con la scritta Notav. Naturalmente vi aggiorneremo più tardi nella prossima edizione. Adesso vi lasciamo con lo speciale dedicato alla morte di Lucio Dalla. GR24 torna alle 16. Ho corso chilometri sotto la pioggia senza una goccia di sudore. Scalato montagne innevate senza un brivido di freddo. Sono andato in fuga con tutti i muscoli rilassati e quando mi sono fermato ero già pronto a ripartire. Con Audi Complete Package la vostra Audi sarà sempre in perfetta forma. Scegliendo i nuovi pacchetti di manutenzione Audi, per i prossimi 5 anni non avrete più pensieri. Per maggiori informazioni rivolgetevi al vostro concessionario Audi. Allora, come si sente? Ma insomma, oggi in banca poi... Ma lei non ha ING Direct? Sì. È una banca online. Ma hanno aperto le filiali. Prenda 4 gocce di queste 3 volte al giorno. Ma io ci sono stata. 6 gocce. Dottore, l'ascolti? Ma chi parla? Sono lo speaker. Oggi abbiamo anche le filiali. E Conto Arancio è sempre a 0 spese. Apri Conto Arancio e prendi il 4,20 sui depositi fino a 100.000 euro per 12 mesi. Valido per i nuovi clienti che attivano Conto Arancio e aderiscono all'opzione Arancio Più entro il 31 marzo 2012. Pubblicità. Per i fogli informativi vai su ingdirect.it o in filiale. Lezione per combattere il mal di schiena. Potete provare Flector, cerotto medicato. Applicatelo sulla parte dolorante. Avrete un rilascio attivo per 12 ore. La lezione è già finita. Da Bayer, Flector, cerotti e gel. Sono medicinali che possono avere effetti indesiderati anche gravi. Nuovo Daily Iveco ha 3 nuovi poteri. Motore da 146 cavalli, sospensioni autolivellanti, ESP e allestimento top. Fino al 31 marzo tuo a soli 21.800 euro. Chiama l'800-800-288. Stanco della tua connessione internet troppo lenta? Stanco di cliccare a vuoto per ore? È arrivato il momento di dare un'accelerata al tuo mouse. Velocizza la tua connessione internet con 2Way, internet a 10 megabit al secondo e telefonate a solo 1 euro al giorno. Vuoi internet veloce e subito? Ovunque sei, scegli 2Way. Per maggiori informazioni visita il nostro sito internet ovunquesei.it o chiama 848-390-056. Sì! Gli speciali di Radio 24. Un saluto da Marta Cagnola, staremo insieme per un'ora per salutare un grande artista, Lucio Dalla, scomparso improvvisamente questa mattina in Svizzera. Ricorderemo la sua storia attraverso le sue canzoni, i ricordi di amici e collaboratori e anche i vostri ricordi se volete scriverceli via SMS. Il numero lo conoscete, è il consueto di Radio 24, 349-238-6666. Ma io vorrei cominciare a ricordare la storia di Lucio Dalla proprio dall'inizio. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. 4 marzo 1943 non era la sua storia, ma la canzone aveva preso il titolo della sua data di nascita e poi ricorderemo il perché. 4 marzo 1943, quindi tra 3 giorni Lucio Dalla avrebbe compiuto 69 anni. Bolognese, e suo padre era un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, come cantava in Come profondo il mare. Sua madre, Iole, ritratta nella copertina dell'album Cambio, era una sarta, mentre suo zio, Ario Dante Dalla, era stato un cantante melodico popolare noto negli anni 40 e 50. A Rio de Janeiro, un giorno me ne andrò. A Rio de Janeiro, di musica vivrò. Nel 1950 era rimasto orfano di padre, era stato messo in collegio a Treviso dove aveva trascorso le scuole elementari e aveva iniziato a esibirsi nelle recite scolastiche imparando a suonare la fisarmonica. E poi, tornato adolescente a Bologna, si appassionò al jazz e al suo strumento, il clarinetto che gli aveva regalato sua madre per il 13° compleanno. Il giovane Lucio aveva imparato in fretta a suonare, aveva cominciato a esibirsi come clarinettista di un gruppo jazz bolognese, la Reno Dixon Dixieland Band, di cui faceva parte anche il regista Pupi Avati, che oggi lo ricorda e dice: un'amicizia lunga, una vita, un dolore grandissimo. Le riprese del film, della serie TV Un matrimonio, sono state interrotte, ha spiegato il fratello di Pupi Avati, Antonio. Scrisse le musiche del Cuore grande delle ragazze, degli amici del bar Margherita, ricorda Antonio Avati, felice come un ragazzo al primo film, quando nelle proiezioni pubbliche scattavano gli applausi. E Pupi e Antonio lo vogliono ricordare come un talento musicale grandissimo e un uomo buono e generoso che abbiamo avuto la fortuna di conoscere, frequentare e amare. I primi tempi sono appunto accompagnati dal jazz. Il primo festival europeo del jazz ad Antibes, 1960, poi 61 la prima esperienza in sala d'incisione e poi nel 62. E ora chiediamo a uno dei protagonisti di quegli anni se è vero un incontro con un gruppo allora leggendario che erano i Flipper. Noi ci colleghiamo con un uomo che associamo sempre immediatamente alla più grande gioia di vivere e ai periodi più spensierati della storia d'Italia. Ci colleghiamo con Edoardo Vianello. Edoardo, buongiorno. Buongiorno. Edoardo, insomma, noi ti associamo sempre a momenti di straordinaria vitalità e allegria. Oggi purtroppo dobbiamo ricordare un amico, un grande artista. Edoardo, come andarono quegli anni e il vostro incontro e insomma la vostra avventura insieme? Beh, io l'ho conosciuto quando lui aveva 16 anni, nel 1961, in un'occasione, 15 anni che avesse, in occasione di una tournée in Sardegna. Un ente turistico della Sardegna aveva organizzato una tournée quando ancora la Sardegna non era sviluppata, le strade impossibili, una tournée di 20 giorni, e lui suonava nella seconda Roma New Orleans Jazz Band, un gruppo che di jazz che faceva Dixieland molto, molto quotato allora, ed io ero stato inserito, ero un esordiente, ero stato inserito in questo spettacolo, per cui l'ho conosciuto in quei 20 giorni, ma era un ragazzo estremamente riservato, timido, introverso, soltanto legato al suo clarinetto, non aveva ancora una grande capacità di comunicazione che invece poi ha dimostrato in tutta la sua carriera. Con i Flipper aveva firmato il primo contratto Lucio, esatto. Dalla, quindi erano proprio gli inizi. Sì, lui aveva firmato con i Flipper, io ho realizzato diversi dischi con i Flipper, e quindi ci siamo ritrovati appunto in sala di registrazione, abbiamo fatto I Vatussi, Il Peperone, quindi diverse canzoni di successo, e un long play che si chiamava Arrivano i Mostri, nel quale nel long play riproponevamo le canzoni allegre del dopoguerra. Siamo all'inizio degli anni 60, 62, sì, 63. 64 circa. E poi lui abbandonò i Flippers dicendo che gli avevano proposto di cantare. E di conseguenza l'abbiamo perso, però abbiamo acquistato un grande artista. Massimo Catalano racconta: Lucio suonava nel complesso dei Flipper insieme a lui, partecipammo nel 63 al Cantagiro con un brano intitolato I Vatussi, insieme appunto a Edoardo Vianello. A quella manifestazione partecipava anche Gino Paoli, che ci rubò letteralmente Lucio facendolo diventare un cantante del suo clan. Noi ci incavolammo molto con Gino, questo è il racconto di Massimo Catalano. Edoardo, tu poi hai seguito ovviamente la carriera di Lucio Dalla. Non ho capito. Poi hai continuato a seguire la carriera di Lucio, insomma era impossibile non appassionarsi alla sua carriera. Non potevo non continuare a seguirla, e quindi ho vissuto tutte le sue tappe intermedie. Grazie a Edoardo Vianello. Non è per te. Mi dicevano così. Ma da te volevo un mondo 1964, 21 anni, aveva inciso il suo primo 45 giri contenente Lei non è per me, e ma questa sera quest'ultima cover di Hey Little Girl di Curtis Mayfield, pubblicato dalla RC, casa discografica distribuita dalla RCA italiana, che poi fu la casa discografica per cui usciranno i successivi 45 giri di Lucio Dalla, nonché il suo primo LP. Esordio nel Cantagiro 1964, in cui presentava proprio questa Lei, un esordio deludente sia durante le serate itineranti, perché così funzionava il 1964, che specialmente, dicono le cronache dell'epoca, durante gli spostamenti della carovana nella quale veniva fatto segno di lanci, ortaggi ed errate alimentari, ma lui non si perdeva d'animo. Un proprio gruppo di accompagnamento, Gli Idoli, tutti musicisti bolognesi, il primo album 1999, pubblicato nel 1966, album trainato da Quando ero soldato e Puff Boom, presentata al Festival di Sanremo del 1966. Sanremo di Lucio Dalla, non possiamo non chiedere qualcosa al più grande esperto della storia del Festival di Sanremo, Eddie Anselmi. Buongiorno Eddie. Buongiorno Marta, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 24. Brutta giornata. Anzi. Brutta giornata, Eddie, peraltro bolognese. Noi ci siamo incontrati, ci siamo visti fino a qualche giorno fa proprio a Sanremo, l'ultimo Sanremo di Lucio. Ovviamente nessuno poteva aspettarsi un avvenimento del genere. Eddie, che cosa ci racconti di quelle prime esperienze di Lucio Dalla a Sanremo? Lucio Dalla suscitava curiosità non tanto per il suo repertorio quanto per il suo aspetto fisico. Infatti un cantante con la barba faceva di per sé parlare di sé. La barba nel 1966 su un palco come quello del Festival di Sanremo era come la cresta da punk oggi, peggio, un gesto clamorosamente di rottura esistenzialista o quant'altro, certe estetiche che però è una certa connotazione di tipo di andare controcorrente. E gli facevano domande, qualcuno diceva, faceva appunto commenti sulla sua presunta sciatteria, perché comunque un uomo barbuto deve essere per forza sciatto, e dicono che la sua Puff Boom è una canzone pseudo futurista con fischi da pecoraio, fragori vocali, interiezioni. Non conoscono evidentemente lo scat, e all'inizio il secondo Sanremo invece è più che sull'immagine, è un po' segnato dalla tragedia di Luigi Tenco, per cui Lucio Dalla abita nella stanza vicino, è testimone più o meno oculare delle prime fasi del concitato ritrovamento del corpo di Tenco, e da allora mantenne sempre un rigoroso riservo sull'accaduto. La sera però doveva tornare sul palco e la sua canzone si chiamava Bisogna saper perdere. Quindi, ecco Eddie, era il 1967, quindi Bisogna saper perdere. Tu no. Ogni giorno quello che è successo a noi. Bisogna saper perdere, bisogna saper perdere, non sempre si può vincere, e allora cosa vuoi? Sanremo 1900 1967 bisogna saper perdere c'era anche un gruppo di giovanissimi capelloni, anche loro avevano destato particolare clamore. Buongiorno Shell Shapiro, buongiorno Shell. Buongiorno. Shell, allora io ti ringrazio della tua disponibilità a intervenire, insomma sono momenti che lasciano l'amaro in bocca e soprattutto che ci fanno investire da tantissimi ricordi, immagino che i tuoi siano fortissimi. Sai, noi siamo arrivati a Sanremo insieme a Lucio, perché eravamo già in tournée insieme da quattro mesi, da settembre-ottobre del 66 che eravamo in tournée insieme. Quindi era un momento quando noi eravamo straconosciuti e Lucio ancora molto meno. Allora siamo arrivati lì, però sai, Sanremo è stato un episodio particolare, perché c'è stato in mezzo la storia di Luigi, c'è stato in mezzo il fatto che la prima sera che siamo andati sul palco c'è stato un momento di panico perché Lucio non trovava i pantaloni del smoking, allora è andato con un paio di jeans e un tuxedo da sera, cioè elegantissimo sopra della vita in giù con un paio di jeans. E non erano gli anni di oggi, non si poteva fare. Ma si potrebbe, è che le apparenze lì non erano importanti, era importante quello che tu avevi da dire e quello che tu facevi. La società chiaramente è cambiato e non si può più pensare in quei termini lì. Lucio era comunque un sperimentatore. Dall'inizio lui è stato avanti musicalmente, avanti a tutti noi, anche come musicista, era un folletto geniale in qualche modo, e devo dire che anche l'RCA, la sua casa discografica, se non avesse avuto l'appoggio di un grande, grande casa discografica a sostenerlo per molti anni, probabilmente non avrebbe trovato la forza di uscire. Ce ne sono delle persone che amano molto la musica, anche nella discografia, specialmente allora, che hanno appoggiato degli artisti che alla fine hanno fatto dei capolavori, voglio dire, stiamo parlando di un uomo che ha scritto Caruso, che è un capolavoro assoluto. Shell, come tu hai raccontato insieme all'indimenticato Edmondo Berselli nei vostri spettacoli teatrali, tu arrivavi da un altro mondo e quindi l'Italia degli anni 60 per te era una scoperta, voi arrivavate come Rocks da tutt'altro universo, non era come certo, oggi. Certo. Che impressione vi aveva fatto questo ragazzo italiano che però si era formato anche sulla musica anglosassone? Sulla musica jazz più che altro. Ma sai, Lucio aveva la mia età, eravamo ragazzini insieme, allora quando abbiamo cominciato ad andare in tour insieme, andavamo in giro, io ero altissimo e lui era piccolissimo e lui diceva a tutti, ecco, vedi che siamo l'articolo il, io vado in giro con Shelley, I e l'El, è stato il primo uomo a chiamarmi Shellino, sai, c'è una serie di... come si può dire, di piccole cose che non si possono neanche raccontare. Shell, tu poi negli anni, visto che hai vissuto mille vite, tu l'hai incontrato altre volte? Ma certo, cioè non, adesso noi dire che eravamo grandi amici non è vero, cioè tutti adesso diranno che erano grandi amici, sicuramente Lucio aveva il suo giro di amicizia, noi eravamo amici da quando eravamo bimbi e quando ci rivedevamo ci abbracciavamo, ci salutavamo, scambiavamo due parole, abbiamo riregistrato anche Bisogna Saper Perdere insieme un decino di anni fa. Però sai, crescendo ognuno va per la propria strada, come è logico, non? Specialmente poi nel mondo della musica, dello spettacolo, è un mondo di egocentrismo che funziona perché ognuno pensa un pochettino a sé, lo dico nel senso più prezioso del termine, non nel senso più cattivo del termine, ed è quello che faceva di Lucio Dalla. Era bella però. La sua capacità di concentrarsi su se stesso e farsi soffrire per tirare fuori il capolavoro. Era molto bella, bisogna saper perdere, ancora ascoltata ora di una grande modernità. Sì, era moderno, è un tipo di testo che secondo me sia Lucio sia io, oggi come oggi, rifiutiamo come concettualmente abbastanza, cioè non bisogna saper perdere, bisogna saper distinguere soprattutto. Quindi io credo che anche Lucio non ha ritoccato molto la canzone proprio per quei motivi lì, però quando abbiamo rifatto la versione 10 di anni fa, l'abbiamo fatto con grande affetto, con grande amore, ecco. Grazie a Shel Shapiro di questa testimonianza, grazie a te, preziosissima. Grazie a tutti e grazie a Lucio. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. Stanno arrivando i vostri messaggi al 349-238-6666 con i vostri ricordi di Lucio Dalla. Grazie per lo speciale, scrive una ragazza che dice: sono un'uruguaiana che sta ancora imparando ad apprezzare la sua musica. Grazie a Vale da Trento che scrive: brava Radio 24. Lucio scrive: curiosità del caso, proprio ieri tra me pensavo quale fosse uno dei più grandi cantanti italiani e ho detto: ma certo, proprio lui. Roby da Vercelli, sono nato il 5 marzo 62 e quindi tra pochi giorni avrò 50 anni. Dalla era nato il 4 marzo, era stato insieme a Lucio Battisti, nato il 5 marzo, la colonna sonora della mia gioventù. Roby quindi scrive: è un giorno molto triste. Prima di lasciarci per qualche minuto di pausa, io tornerei ancora insieme a Eddie Anselmi, al quale chiedo se può rimanere con noi. Ci sono altri Sanremo molto importanti dopo quel tragico Sanremo del 1967, Eddie. Beh, c'è il 1971, qualche anno di pausa e poi dopo il ritorno al festival, non attraverso la strada dell'invito della commissione ufficiale, ma attraverso l'invito della cosiddetta commissione di rinnovamento, uno esperimento che serviva a portare al festival alcuni motivi a carattere meno commerciale e che tra le altre seleziona una canzone musicata da Dalla e il testo della illustratrice e scienziata dell'illustrazione Paola Pallottino, una studiosa e artista prestata alla poesia, che si chiama Gesù Bambino. A una settimana dal festival la Pallottina viene chiamata negli uffici della RAI e dice: questo testo bisogna cambiare. Innanzitutto il titolo non va bene, perché Gesù Bambino non si può portare al festival una canzone con questo testo, e poi anche i riferimenti ai mestieri di questi, alle abitudini, la gente che bestemmia, no. Il testo viene lievemente curato, vengono arrotondate certe asperità che poi saranno rimesse dal vivo. Lucio Dalla porta con sé il suo vecchio violinista degli Idoli, Renzo Fontanella, e arrivano terzi sbancando tutte le classifiche con 4 marzo 1943. Torniamo dopo a parlare anche di quella piazza grande che arriverà qualche tempo dopo. Ci fermiamo per un attimo e poi ricominciamo a ricordare insieme Lucio Dalla. L'uomo dal braccio destro rosso ha una nuova offerta. A TIM su misura più. Smartphone incluso e ci naviga pure. Parla con tutti i numeri mobili e in più ha 2000 minuti verso tutti i fissi nazionali. Tutto a 30 euro al mese senza tassa governativa. Informazioni e condizioni su impresasemplice.it. Buongiorno, dovrei controllare la macchina, ma è poco, sa com'è, l'ultima volta mi hanno cambiato sedili, carrozzeria, impianto stereo, ho speso una fortuna. Non si preoccupi, noi badiamo alla sicurezza e la sicurezza non è un optional. Da Boscar Service fino al 31 marzo ben 28 controlli di check-up e la diagnosi computerizzata sono gratuiti. In caso di sostituzione, inoltre, c'è uno sconto del 20% su filtri e spazzole e incluso nel prezzo un detergente cristalli tune-up. Boscar Service, tutto quello che serve alla tua auto. Info su boscarservice.it. Lo sai che Rumba pulisce da solo, programma il percorso, evita gli ostacoli e sale sui tappeti? Ma è fantascienza! No, è un super tecnologico robot aspirapolvere. Expert lo offre in abbinamento alla lavatrice Candy Grando Evo, che lava perfettamente anche a 20 gradi. Lavatrice Candy più Roomba i robot, il tutto a soli 549 euro. La festa degli elettrodomestici è solo da Expert! Vendita abbinata valida dal 1 al 24 marzo 2012. Info in tutti i punti vendita aderenti. Roomba! Lo voglio anch'io! Conoscere i mercati, i rischi e i rendimenti è il primo passo per orientarsi nel mondo della finanza e del risparmio. Il Sole 24 Ore presenta le guide di Plus 24, un percorso di educazione finanziaria con tutte le risposte pratiche per investire al meglio i propri risparmi. Solo sabato in edicola con il Sole 24 Ore. Conoscere i mercati. Borse in diretta. Di Milano balza di oltre il 2%, realizzando la miglior performance in Europa, trainata dalle banche all'indomani della maxi iniezione di liquidità da parte della Banca Centrale Europea. Ma a dare fiducia al settore bancario oggi anche la flessione del rendimento del BTP decennale sotto il 5% per la prima volta da agosto scorso e lo spread con il Bund in forte calo intorno ai 311 punti base. Intanto stanno per aprire le contrattazioni a Wall Street, in un mercato che oggi guarda anche ai dati economici che sono stati diffusi. In primo luogo i sussidi alla disoccupazione, che sono scesi di 2.000 unità, e la crescita dei redditi personali e le spese per consumi, rispettivamente più 0,3 più 0,2%. I futures danno un'apertura positiva, in realtà abbiamo adesso l'apertura americana che appunto è all'insegna della crescita, più 0,24% sul Dow Jones, più 0,34% per il Nasdaq, i listini americani che stanno viaggiando sui massimi dal 2008, anche se il Dow Jones adesso è sotto i 13.000 punti. L'Europa, Parigi in rialzo di un punto, Francoforte in rialzo di un punto, Londra più 0,80, Milano più 2,21, il miglior titolo il Banco Popolare che segna più 10, Monte dei Paschi più 5,7, Ubibanca più 5,41, più 5 anche per Unicredit e la Popolare di Milano. Euro su dollaro a 1,3317, tutti i mercati tornano alle 16.30. Voglio che ognuno di voi mi faccia un disegno di come pensa che sarà il futuro. Vogliamo immaginare un futuro possibile, un mondo migliore. Il Gazzettino del 2015, il quotidiano di Radio 24 che racconta ciò che sarà. Nutrizione, sostenibilità, tecnologie, ambiente, cultura, i fatti più verosimili che accadranno in futuro, basati su dati e prospettive attuali. Il Gazzettino del 2015, ogni giorno alle 6.55 e alle 12 su Radio 24. In collaborazione con Expo Milano 2015. Ciao, sono Laura e ho inventato le pulizie di casa. Io sono Marco e ho inventato il vicino di casa. Sono Gaia e ho inventato il lavoro da casa. Matteo e ho inventato l'uomo di casa. Tu inventi la tua vita. Genartel inventa le soluzioni che la proteggono, come Quality Home, la polizza online su misura per la protezione della tua casa. Chiara, completa, sempre a portata di mano. Genartel, l'assicurazione online facile, conveniente, affidabile. 100% Gruppo Generali. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo su genartel.it. Qui non facciamo trucchi, solo chi merita diventa Rosaria. Arancia Rosaria, povera di calorie, ricca di vitamine e sali minerali. E oggi anche in brick. Spremuta 100% di arancia rosaria, fresca tutto l'anno. Arancia Rosaria, la salute vien mangiando e bevendo. Scoprite la tariffa chiami chi vuoi, ma solo alle 3 del mattino. Parlate, navigate, mandate sms a giorni alterni. E la custodia per il cellulare è in omaggio. Scegli un'offerta seria. Passa a Tre con Smart Pack Black, la prima ricaricabile all inclusive che con solo un euro a settimana ti dà 120 minuti, 60 sms e 400 mega al mese. Costo attivazione 10 euro. Per info, condizioni, limitazioni sul traffico ed extra soglia, 3.it o in 3 store. Gli speciali di Radio 24. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io. A modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho. Stiamo salutando Lucio Dalla, che è scomparso improvvisamente questa mattina mentre si trovava in Svizzera. Tra qualche giorno avrebbe compiuto 69 anni. Stanno arrivando i vostri messaggi al 349-238-6666. In tanti veramente vogliono ricordarlo. Paolo scrive: artista istrionico, sperimentatore, sensibile animo innamorato della vita, i suoi indimenticabili capolavori e la sua voce resteranno a suo ricordo. Luca se n'è andato nella discrezione con cui ha sempre vissuto. Grazie Lucio per le tue splendide canzoni che hanno dato lustro all'Italia nel mondo. Stefano da Padova: chi scrive canzoni come Caruso non è un artista ma l'artista. Emanuele Ferrara ci ringrazia per lo speciale per salutare, scrive, l'anima matta e delicata dell'Emilia. Tanti, veramente tantissimi i messaggi, vorrei leggerne il più possibile. Michele da Verona: ho avuto i miei problemi di adolescenza dove ci si attacca molto alla musica. Lucio, senza saperlo, mi ha dato una mano e forse un po' anche salvato. Grazie Lucio. Abbiamo ancora collegato con noi Eddie Anselmi. Eddie, espertissimo del Festival di Sanremo, abbiamo ricordato questi Sanremo 66, 67, 71 e poi ancora lui ha partecipato più di una volta, Eddie, al Festival di Sanremo. Torna nel 1972, fu l'ultima volta in gara prima dell'esibizione di quest'anno, a fianco di Pier Davide Carone, ma comunque a tutti gli effetti in gara, con una canzone che fino all'ultimo momento voleva portare Gianni Morandi. A contesa, poi anche in casa discografica non sapevano che farne, perché volevano chiamarla Canal Grande, no, perché Piazza Grande, Piazza Grande che peraltro Bologna non esiste, confondi turisti, la piazza di Bologna si chiama Piazza Maggiore, Piazza Grande è un ideal tipo di piazza, si parla di leva in un'altra piazza che si chiamava Piazza Cavour, dove fu ambientato anche un curioso trafiletto di un rotocalco dell'epoca che giocava sul verso con me di donne generose non ce n'è, allora dipingeva una volta le ragazze di Piazza Cavour. Diciamo offendere quasi offendersi di fronte a un Lucio Dalla schivo, ma questi sono racconti di costume che caratterizzavano una partecipazione a Sanremo. Era un fado con i mandolinisti, con gli strumentisti, arrivò nelle posizioni di rincalzo, fu un buon successo non paragonabile a quello di 4 marzo 1943. E poi quest'anno il ritorno, l'abbiamo visto fino a pochi giorni fa, appunto ci ha colpito particolarmente questa notizia perché era molto felice e molto contento di essere tornato a Sanremo, un po' giocando, un po' scherzando e soprattutto per sostenere il giovane talento di Pier Davide Carone, Eddie. Ma è stato sempre un eccezionale scopritore di talenti, eh? Ha dato opportunità a artisti più giovani di lui che l'hanno accompagnato una certa parte del suo percorso artistico, basti pensare agli Stadio, a Luca Carboni, Samuele Bersani e oggi con Pier Davide Carone, quindi fa parte del tanto che ha fatto Lucio Dalla, l'ultima volta in quella che rimane come è destinata a restare per tragico incrocio degli eventi, alla storia come il suo epitaffio artistico, insomma la sua pagina di chiusura. Prende per mano un giovane talentuosissimo, seppure sia uscito da un percorso di cui tutti parlano in maniera controversa, come quello di Amici, e lui dice: no, questo ragazzo, al di là che sia venuto fuori di Amici, ha i fondamentali, sa scrivere canzoni, sa cantare, ci garantisco, io lo porto sul palco di Sanremo. Quindi se dobbiamo romanzarla un po' questa ultima partecipazione, si presta bene a essere romanzata in questo modo. Grazie all'espertissimo di storia del Festival di Sanremo e autore degli almanacchi del Festival di Sanremo, Eddie Anselmi, grazie per essere stato con noi e intanto auguro una buona giornata a Michele Monina. Buongiorno Michele. Buongiorno a voi. Uno dei più grandi esperti di musica italiana, biografo, autore di qualsiasi tipo di storia della musica. Michele, io volevo chiederti una cosa, una fase in particolare nella vita di Lucio Dalla, ma ascolterei insieme a te un brevissimo estratto da una canzone fondamentale. Certo. Mm-hmm. Ma dove vanno i marinai con le loro giubbe bianche, sempre in cerca di una rissa o di un bazar? Ma dove vanno i marinai con le loro facce stanche, sempre in cerca di una bimba da baciare? Ma cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto? Vanno a prendersi l'amore dentro al bar. Qualcuno è vivo per fortuna, qualcuno è morto, c'è una vedova da andare a visitare. Eccoci Michele, tra l'altro tu hai dedicato Così mi distraggo un po', Vite e canzoni di Lucio Dalla, se non sbaglio edito l'anno scorso da Arcana. Esatto, ecco. Michele, è impossibile condensare in un capitolo solo la musica di Lucio Dalla, perché lui veramente ha aperto e chiuso tantissimi capitoli. Abbiamo ricordato poco fa le sue avventure al Festival di Sanremo, ma ha avuto anche grandissime collaborazioni, beh insomma Francesco De Gregori forse veramente uno dei suoi più grandi amici, lui ha semplicemente scritto qualche riga, ha detto non vuole fare dichiarazioni, ha solo detto che è molto triste e ha affidato il suo messaggio a Michele Mondella, che lavorava appunto al fianco di Lucio Dalla e che era al fianco di Lucio Dalla anche oggi. Ecco Michele, questo rapporto straordinario con Francesco De Gregori e le straordinarie collaborazioni di Lucio Dalla, tu cosa ne hai scritto? Questo momento qui, cioè della canzone Ma come fanno i marinai, ma anche di Banana Republic, che è stato un loro tour di fine anni 70, che in qualche modo ha segnato l'ingresso degli italiani negli stadi, è probabilmente uno dei capitoli più importanti della storia della musica leggera italiana, proprio perché due artisti diversissimi tra loro come Lucio Dalla e De Gregori, ricordiamo De Gregori veniva dal periodo del cantautorato anni 70, quello impegnato, quello politicamente, aveva subito il famoso processo del Palalido in cui appunto i movimentisti l'avevano accusato di non essere abbastanza schierato dalla loro parte e aveva deciso di non fare più concerti dal vivo. De Gregori si incontra con Dalla, che era invece considerato quello strano, no? Quello che faceva le interviste magari seduto sul water o a torso nudo in spiaggia, e danno vita a un tour clamoroso. Basti solo pensare che il direttore artistico del tour era Ron e che la band che accompagnava Dalla lì erano gli Stadio, per fare qualche nome, e insieme scrivono una pagina fondamentale, riempiono stadi italiani. Per la prima volta artisti italiani riescono a riempire degli stadi, scrivono alcune canzoni bellissime, tipo Cosa sarà, contenuta nell'album Lucio Dalla, e automaticamente finiscono appunto nel libro della storia della musica leggera italiana. Raramente è capitata una collaborazione così viva tra due artisti, perché solitamente i duetti vengono decisi magari dalle case discografiche. Lì c'era stato proprio un innamoramento artistico, anche un po' romanzato da Dalla, perché Dalla ha dichiarato più volte che l'idea di fare questo tour è venuto perché lui un giorno era in autostrada in macchina e dall'autoradio è partita la canzone Santa Lucia, contenuta nell'album Rimmel di De Gregori, e lui si è commosso, si è messo a piangere e ha deciso di contattarlo. In realtà nell'album era contenuta una canzone scritta da tutti e due, quindi già si conoscevano e ovviamente questo faceva parte dell'istrione Dalla come aneddoto, però è pur vero che erano due artisti distanti ma che insieme hanno reso a altissimi livelli, cioè quasi migliorandosi reciprocamente. Non a caso si sono rimessi in gioco recentemente con il Work in Progress Tour, che è stato una promessa, perché poi c'era l'idea che avrebbero rifatto un intero album in studio insieme, cosa che purtroppo non accadrà. Tra l'altro loro insieme avevano anche scritto i brani per Ron, Per una città per cantare. È sempre stato anche un grande scopritore di talenti Lucio Dalla, Michele? Sì, Dalla è sempre stata una persona molto curiosa, e lo si capisce perché non esiste genere musicale che non abbia toccato. Dal rap al funky alla disco, qualsiasi genere lui l'ha fatto, ha iniziato dal jazz, però diciamo ha toccato tutti i generi, e ogni volta che ha incontrato un talento ci ha tenuto a tirarlo su. La cosa che ha fatto adesso con Carone, che in realtà molti molte persone che si occupano di musica, me compreso, non hanno apprezzato tantissimo la canzone in sé, no? Perché è una canzone carina, ma l'ha fatto sicuramente di meglio. Però il gesto di accompagnare un ragazzo di 23 anni sul palco, illuminando la canzone con i suoi interventi, perché ogni volta che apriva bocca lì all'Ariston si respirava veramente un'aria diversa da tutto quello che era successo nel mentre, è un gesto di generosità pura, ma appunto dagli stadio allo stesso Ron per certi aspetti, ma pensiamo anche a Gianni Morandi, cioè, quando c'è stato il Dalla Morandi Tour, Gianni Morandi veniva da un buco nero che c'era stato nella sua carriera, da dopo essere stato il fidanzato d'Italia, quello dei Cantarelli, dei Musicarelli, dei film musicali, dopo essere stato quello di In ginocchio da te, fatti mandare dalla mamma, per un po' di tempo Gianni Morandi era scomparso e Dalla l'ha riportato in vita artisticamente, e Morandi da lì in poi c'è sempre rimasto. Alcuni brani tipo Bella Signora, ad esempio, che sono stati grandissimi successi di Morandi, l'ha scritti Dalla, e lui l'ha fatto con tutti, appunto Bersani è noto, gli ha mandato il cosiddetto nastrino, si chiamava una volta, cioè un'audiocassetta con un brano, gliel'ha portato a Riccione prima del suo concerto, lui l'ha ascoltato e quella sera stessa Bersani si è esibito sul palco del tour di Dalla, ha fatto una canzone che si chiama Il Mostro e addirittura poi è finita in un album di Dalla che si chiama Amen, e da lì in poi Bersani è diventato Bersani, cioè uno dei cantautori più interessanti che ci siano in circolazione a tutt'oggi. Luca Carboni idem, sono davvero tantissimi gli artisti che sono passati da lui, e lui generosamente, essendo una persona curiosa, ascoltava tutto e quando trovava un talento, se poteva, lo innalzava. Grazie a Michele Monina, così mi distraggo un po', Vita e canzoni di Lucio Dalla, il suo libro edito proprio l'anno scorso da Arcana, noi ci ritroviamo tra poco. Strade in diretta. Lungo la tangenziale sud di Torino si formano code a causa di un incidente tra l'autoporto e l'innesto per la tangenziale nord in direzione di quest'ultima. I cantieri causano code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Busto Arsizio sulla carreggiata verso Varese. Sempre per lavori sulla A14 Adriatica ci sono dei rallentamenti tra Riccione e Cattolica in direzione Ancona. Prudenza, soffia vento forte sul versante Adriatico tra Abruzzo, Molise e Puglia. Ricordiamo infine che per lavori programmati fino alle 17 resta chiusa la 3 Salerno-Reggio Calabria tra Buonavitalco Padura e Lago Negro Nord in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento tra un'ora. Promo 24. Con Impresa Semplice di Telecom Italia, da oggi chi lavora ha la convenienza di poter scegliere quel che gli serve. Grazie a Team su misura più, la nuova offerta che permette di avere uno smartphone, 500 mega al mese di navigazione, 2000 minuti di chiamate verso tutti i telefoni fissi nazionali e di chiamare tutti i mobili scegliendo tra diversi tagli di minuti. Tutto a partire da 30 euro al mese, senza tassa governativa. Ed è possibile scegliere anche un BlackBerry Bold 9790. Per ricaricabili, la promozione è valida per le nuove linee o per chi passa Team entro il 30 giugno. Durata contrattuale di 24 mesi. Impresa Semplice, il meglio di Team e Telecom Italia per il business. Tutti i dettagli su impresasemplice.it o chiamando il 191. Gli speciali di Radio 24. Uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino quasi a renderla un po' squalcita. Vita, io ti vedo. Dalle finestre della casa di Lucio Dalla a Bologna raccontano, in questo momento stanno risuonando le canzoni dalle finestre socchiuse, insomma le grandi canzoni di Lucio. Intanto stanno arrivando moltissimi vostri messaggi al 349-238-6666. Stefano da Ponte San Nicolò: con Lucio perdiamo una delle anime della musica italiana. Dario da Bergamo: Caruso, L'anno che verrà, Anna e Marco, Ayrton e quante altre. L'ho scoperto da ragazzo, apprezzato anno dopo anno, un solo grande rimpianto: non ho mai mai assistito a un suo concerto. Ciao Lucio. Abbiamo citato tanti collaboratori, tanti talenti scoperti da Lucio Dalla e soprattutto tanti bolognesi. Allora chiediamo cosa ne pensa a un cantautore bolognese, Michi Porru. Buongiorno Michi. Buongiorno Marta. Io penso che per Bologna oggi sia una città una giornata particolarmente triste. Sì, direi proprio di sì, è una notizia tremenda, tragica. Dalla ha dato, per dire, a Bologna il soggetto di una delle più belle canzoni italiane di sempre, probabilmente, Piazza Grande. Bologna ha sempre amato molto, ricambiata a sua volta dall'amore di Dalla per Bologna, con la sua attività incessante. Insomma, sicuramente Dalla in un certo senso era Bologna, ha prodotto, lanciato tantissimi artisti bolognesi, emiliani, poi insomma li conoscono più o meno tutti, insomma, ha reso mitiche mitici dei luoghi come la Trattoria Vito, per dirti, che era il luogo dove ancora oggi gli studenti vanno a cercare i cantautori che suonano la chitarra di notte, insomma lui la frequentava con grande amore. Veramente è una grande perdita. Michi, quanto ha contato l'aver respirato l'aria di Bologna, secondo te, per Lucio Dalla, una città magica? Sì, una città magica, una città che, per quanto forse negli ultimi anni abbia perso un po' il suo smalto, eccetera, comunque ha sempre privilegiato le dimensioni creative, artistiche. E Dalla nel mondo della musica, nel mondo della cultura bolognese, sicuramente rappresentava un po' il centro di questo universo, insomma, sia perché ha cominciato molti anni fa e sia perché poi comunque nella sua arte ha sempre messo Bologna come centro della sua ispirazione, un po' come Woody Allen con New York, non so come dire, capito? Cioè proprio, e quindi veramente una giornata triste. Io ringrazio Michi Porru e passiamo da un ricordo all'altro. È impossibile non sentire la voce di uno dei più grandi collezionisti, esperti, archivisti della storia della musica italiana, che questa sera ci farà un altro grande regalo, ma lo chiediamo a lui, Red Ronnie. Buonasera Red. Ciao. Io so che tu stai lavorando tantissimo per farci un grosso regalo per ricordare Lucio, che tu conoscevi molto molto bene. Ecco, ricordo il giorno che Luciano venne a registrare l'altro stereofono print, era... Qui è Lucio che sta parlando di Pavarotti. Io sono stamattina, quando mi ha chiamato Gianni Fantoni, mi ha scioccato con questa notizia, poi immediatamente sono andato su Twitter. E poi ho spento tutto, non riesco a spegnere i telefonini perché mi chiamano in continuazione e sto dicendo un po' di no perché voglio lavorare, mi sono immerso in tutto il materiale, in una parte del materiale, non riuscirò a fare tutto che ho di Lucio, perché immergendomi immediatamente nei video dove sono con Lucio, dove lui viene a Roxy Bar, lui canta, anche perché è una persona estremamente generosa, nel senso che io ad esempio avevo Gino Paoli e dicevo, Lucio, lo chiamavo, dicevo, Lucio, Cecino, visto che lui ha creduto in te all'inizio, perché non vieni e fai una canzone con lui? Dicevo, va bene, lui partiva, arrivava dentro lo studio al volo, entrava, saliva sul palco, hanno fatto Senza fini insieme e poi ho detto ciao ciao, è andato via. Fino alla cosa più rivoluzionaria, quando lui mi chiamò, mi chiese un favore, mi disse, e credo sia la cosa più rivoluzionaria fatta in televisione, ma era una sua idea, io vengo con Enna, non è stato capito, vengo con CD, guarda che Lucio ce l'ho io il tuo CD, dice no ma io vengo con CD, ti porto il CD, quello che c'ho proprio in macchina, perché è bello così, scendo, prendo il CD, entriamo e tu vai ad ascoltare Enna a Roxy Bar mettendo nero lo schermo. E abbiamo fatto questa cosa di cui ne parlò anche Liberazione in Francia, perché era l'annullare la televisione. E quindi io sto preparando questo speciale, queste 4 ore che farò in diretta questa sera dalle 8 a mezzanotte su Roxy Bar TV, sul web, su internet. E lo sto facendo immergendomi. E questo fatto di vivere insieme a Lucio, perché io sto vivendo con Lucio nelle varie occasioni, cioè in questo momento, mi dà proprio il senso dell'eternità che noi viviamo, che con gli artisti è più palpabile. Lucio Dalla diceva che questo è il primo atto, no? La morte finisce il primo atto, in realtà finisce uno dei tanti atti, e quindi diventa proprio la tocchi con mano l'eternità, perché lui ci rimane in noi, le sue canzoni. Prima le abbiamo sentite Valentino Rossi che diceva: Disperato erotico stomp, la mia canzone preferita. Io concordo con lui, non è la mia canzone preferita, però è quella che mi ha fatto riscoprire Lucio nuovamente. Alla fine noi rimaniamo per ciò che abbiamo dato agli altri, non rimaniamo per ciò che abbiamo avuto o accumulato. Non rimani nella memoria come energia perché sei diventato il più ricco del cimitero, ma rimani per come hai aiutato gli altri, per le emozioni che hai lasciato negli altri. Red, ti devo ringraziare tantissimo. L'appuntamento quindi è stasera su Roxy Bar TV, sì, dalle 20 in poi. Ti ringrazio, te, scusami, sono avanti, ma io. Grazie, Red, ti ringrazio veramente tanto. Nani, nani, nani. E questo è l'ultimo ricordo che abbiamo di Lucio Dalla, questa partecipazione insieme a Pier Davide Carone all'ultimo Festival di Sanremo. Quindi io vorrei lasciare l'ultimo ricordo a chi c'era insieme a noi a Sanremo e chi sicuramente è rimasto come noi sconvolto, scioccato da questa notizia. Eugenio Finardi, Eugenio. Buongiorno. Beh, insomma, non è un buongiorno ed è una notizia che ci ha davvero stupito e sconvolto. Sì, io sono rimasto particolarmente sorpreso perché appunto 2 settimane fa eravamo insieme a Sanremo, la prima sera avevamo addirittura il camerino uno accanto all'altro e devo dire che l'ho trovato veramente benissimo, gliel'ho anche detto. Era abbronzato, era felice, era raggiante, è l'unica parola che mi viene in mente, era divertito, aveva il suo solito sguardo ironico. Lucio aveva questa capacità, questo sguardo veramente ironico e penetrante, no? Non sarcastico. Era come se lui riuscisse a guardarti dentro e a sorridere con te di te, come sorrideva con te di se stesso. Eugenio, che meraviglia. Grazie a Eugenio Finardi, grazie a Stefania Tagliaferri e a Fabio Cantadori che ci hanno aiutato per questo speciale, e salutiamo ancora una volta Lucio Dalla. Mamma fa l'architetto, ma sapete una cosa? Secondo me adesso è diventata una fatina, perché sa fare le magie. Mentre fa shopping riesce a vedere i progetti che ha in ufficio e non usa un super binocolo. Dice che le basta il suo super tablet. Passa a Vodafone. Con le soluzioni partita IVA lavori ancora meglio perché puoi collegarti al tuo ufficio e ai tuoi documenti dove e quando vuoi. Scopri la promozione speciale per te. Chiama subito l'800 127 777 o vai su partitaiva.vodafone.it. Vodafone. Per chi non aggira gli ostacoli, per chi non aspetta di vedere che direzione prendono gli altri, per chi sa che l'unico modo di dominare la strada è capirla, per chi non cambia strada come cambia il vento, ma sa essere leggero come il vento. 2100 biturbo da 204 cavalli, consumi da record, massime prestazioni senza gli oneri delle auto di lusso. Nuova ML 250 Bluetech Euro 6, per chi va dritto per la sua strada, anche quando la strada non c'è. Provala dal 5 al 10 marzo negli showroom Mercedes-Benz. Già qui? Ma come hai fatto? Per me ha corso Credit Reform. Non devi più correre dietro il tuo denaro. Ci pensa Credit Reform. È il più veloce, sempre. Ah, ma quanto ha vinto? Ha vinto la fiducia di 170.000 clienti perché il gruppo Credit Reform è la prima società di recupero crediti del mondo con 533 milioni di euro di fatturato. Con Credit Reform, il vostro credito è sempre al primo posto. 800-425-325 o creditreform.it. Non possiamo essere cristiani con contratto stagionale. Queste le parole di Don Tonino Bello, profeta del nostro tempo che ha sconfitto pigrizia e pregiudizio. Le sue idee in Servi inutili e tempo pieno, il secondo volume della nuova collana Book, Biblioteca Universale Cristiana. Richiedilo in edicola o in parrocchia, a soli 4,90€ in più, solo con Famiglia Cristiana. Benvenuto nel servizio clienti Quixa. E ho visto sul sito tutte le garanzie che si possono includere nella polizza. Sì. Tante. Sì, però può scegliere solo quelle che le servono. L'anno prossimo metto anche l'assistenza in viaggio all'estero. Scusi, ma chi era? Sa come si dice caro attrezzi in norvegese? Da oggi Quixart ti offre ancora più garanzie per la tua polizza auto. Puoi includere anche l'assistenza in viaggio all'estero. Se ti serve, lo scegli tu. Fai un preventivo. Vai su quixa.it. Quixa, diretta, personale, AXA. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo. Sei un'azienda e cerchi agenti di commercio? Agenti.it. Cerchi rappresentanti? Agenti.it. Cerchi venditori? Agenti.it. www.agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Ciao, sono Alessia Marcuzzi. Hai mai pensato di adottare un bambino a distanza? Con meno di un euro al giorno garantirai a lui e al suo villaggio acqua pulita, scuole e cure mediche. Chiama ora l'800 900 531. Tanti bambini aspettano qualcuno come te che li prenda per mano. Quale regalo migliore puoi fare ad un bambino? Nelle sue lettere ti dirà come, grazie al tuo aiuto, la sua vita sta cambiando. Adotta un bambino a distanza con Save the Children. Bastano 25 euro al mese. Chiama ora l'800 900 531. Grazie.